Sura dello spaccamento, capitolo 84 del sublime Corano, è stata rivelata alla Mecca, consta di 25 ayat, ed è scesa dopo la Sura 82, al-Infitar. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e il clementissimo. Quando il cielo si fenderà e quando esso, dopo avere ascoltato il suo Signore, obbedirà, quando la terra sarà spianata e dopo aver gettato sbarazzandosene ciò che c'è in essa e ascoltato il suo Signore, obbedirà, sarà imminente il giorno del giudizio. O uomo, in verità tu stai faticando con grande sforzo verso il tuo Signore e lo incontrerai. Colui che nel giorno dell'incontro avrà ricevuto il suo libro con la sua destra, dopo essere stato giudicato con sentenza favorevole, tornerà alla sua gente contento. Al contrario, colui che quel giorno avrà ricevuto il suo libro dietro il dorso, invocherà distruzione e arrostirà nel fuoco dell'inferno. Egli, che era contento in mezzo alla sua gente, rifiutando di credere alla resurrezione, pensò che mai sarebbe ritornato al suo Signore per render conto di quello che faceva. E invece sì, in verità il suo Signore lo osservava attentamente. Lo giuro, sì, sui rossi bagliori del tramonto, sulla notte e ciò che essa avvolge, sulla luna quando è piena, voi certamente, sì, ci arriverete al giorno del giudizio, di situazione in situazione, nascita, vita, morte, resurrezione, ma che cosa hanno essi da non credere? Quando viene recitato loro il Corano, essi non si prosternano. Sì, coloro che rifiutano di credere smentiscono la verità dell'annuncio coranico e Allah ben lo sa quello che accumulano. Perciò tu annuncia loro un castigo doloroso. Al contrario, per coloro che credono e praticano il bene è pronta una ricompensa senza fine.